Tirin, tirin, tirin, tiron, tirela, tirela in tu canton e per pasela, tirela in tu canton, cascia scur, fegascia pa la testa contro il muro. Al me murus el toi e du compagn, al me le biut el tolle senza pagn. Al me le biut perché il valusteria, e il tolle senza pain perché è una mia. E me madonna le una scurcacciona, le la scurase per la discaltrona, la mata così al cu della montagna, e per la discalelca non di Spagna. Si è passata la casina bianca, la cagnolina m'ha mordito la gamba. O cagnolina fanno la rabbiosa, la tua padrona è la memorosa. Ai è passata la casina nuova, io saluto la mamma per la fiola. La fiola l'era in let che la dormiva, la mamma l'era in luce che la chiusiva. E me madonna l'è una gran purcassa, la prega il suo carfio che mi lascia, la veno che mi sia sonora, quando mia buonca le clavai a ferra. Al me murus el toi e du cusi, al me le grande il tolle piccini, al me le grande al gabbe la comparsa, al tolle piccini in bella grazia. In flamme sta l'alghetri tra un'imparia, che giovanin cal porta tanta rabbia. Sal porta tanta rabbia cas la tena, a fa l'amor con mi veino calvena. Su mantum pum saltu, mantum per, prandata ta una rama di ninsela, a salta fe il padron di quella brugna, o lascia sta in marenghi in la medona. Che faceva il mio gallo, batte le ali poi monta a cavallo, e con il becco tiene la gallina, e con la cua si assa la farina. O fiulina vena, vena, vena, che ti darò una rama di serena. La rama di serena è un bel fiore, o fiulina venna a far l'amore. Tirin, tirin, tirin, tirin, tirella, tirella tu canton e per pasella, tirella tu canton, cascia scur, fegascia pa la testa contro il muro. Tirin, tirin, tirin, fegascia pa la terra.